Our team is very recent. Last year we were part of the FAIR network and we organized some tournaments in Lisbon. And this year we started some trainings, mostly in Porto, and we got this email to participate in Mundial Antiraciste. So we organized a team and we came to Italy. Qual è l'importante? E allora appunto ci dice che la loro squadra è di recente formazione, molto recente, l'anno scorso sono entrati a far parte della rete FARE e organizzano alcuni tornei a Lisbona. Quest'anno hanno cominciato gli allenamenti, specialmente a Porto, quindi anche in un'altra città del Portogallo, e hanno deciso di iscriversi ai mondiali antirazzisti organizzando una squadra e sono venuti in Italia. Quindi una storia molto lineare e molto semplice. Allora a questo punto il nostro Almin gli chiede qual è per loro l'importanza dei mondiali antirazzisti. Secondo per voi sette mondiali antirazzismo. We are an association of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people, and what we noticed in Portugal is that a lot of this community doesn't feel safe neither comfortable to play sports because they were discriminated in the past. So our team accepts everyone and it's an acceptance environment for everyone to play despite the gender, the skin color, everything. And for us it's just an opportunity to be who we are no matter what we're doing, and the opportunity of playing sports, it's very important because, you know, there's not a lot of outed people in Portugal who play sports. They hide their sexuality because it's not well accepted. Appunto, sono un'associazione LGBT e che si confronta con la realtà portoghese, dove questa comunità non si sente sicura e a proprio agio nel praticare lo sport perché sono stati discriminati in passato. La loro squadra accoglie chiunque indipendentemente dal genere, dal colore della pelle. Per loro i mondiali antirazzisti sono solo un'opportunità per essere quello che sono, senza problemi per quello che fanno, e l'opportunità di praticare sport è molto importante perché in Portogallo non ci sono molti sportivi che hanno fatto coming out, nascondono la loro sessualità perché non sono accettati, perché questa cosa non è accettata.